America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, Barack Obama e in Vietnam. C'è qualcuno di voi che ricorda Apocalypse Now, 1979, grandissimo film sul Vietnam appunto di Francis Ford Coppola. Sing it loud, and the Romeo Foxtrot, shall we dance? Ecco, vi ho fatto ascoltare forse una delle scene più famose della storia del cinema, quando c'è l'attacco degli elicotteri. Il comandante del platoon, del plotone, ormai quasi impazzito, va all'attacco con Wagner, con la cavalcata delle Valchirie, e poi ci sono queste scene orrende di distruzione, di fuoco, di attacchi. Ci sono molti altri film sul Vietnam: Platoon, Born on the 4th of July, Heaven and Earth. Questi tre, tra l'altro, fanno parte di una trilogia di Oliver Stone, ma poi abbiamo Good Morning Vietnam di Barry Levinson, Full Metal Jacket di Stanley Kubrick. I più grandi registi, insomma, hanno cercato di esorcizzare il Vietnam dopo la guerra. Un film bellissimo, tra l'altro, legato al Vietnam, è The Deer Hunter di Michael Cimino con Robert De Niro. La storia la conoscete: nel 1965 parte il conflitto in Vietnam per salvare quella che era una vecchia colonia francese dalle grinfie dell'Unione Sovietica. L'America esce sconfitta da questo conflitto nel 1973, dopo aver perso 58.000 soldati, 58.000 giovani, più di 153.000 feriti. Ecco, oggi sembra storia del lontano passato, le ferite si sono rimarginate. Io sono andato in Vietnam col primo presidente americano che è tornato, con Bill Clinton nel 2000, ci sono tornato con George W. Bush nel 2006, oggi a noi c'è Barack Obama e la musica è cambiata. Ecco, devo dire che è sempre un'emozione sentire l'inno americano nella vecchia residenza coloniale del governo a Hanoi, una bellissima costruzione fatta dai francesi, e ieri la banda militare vietnamita ha suonato l'inno americano in questa grande sala di questo elegantissimo palazzo. Ha suonato subito dopo la colazione d'onore, sui tavoli tovaglie color crema con fiori gialli, verdi e bianchi, vino rosso e rosé nei bicchieri. Barack Obama e il presidente vietnamita Tran Dai Quang seduti l'uno di fianco all'altro. Insomma, il confronto fra le scene di Apocalypse Now e quello che abbiamo visto ieri o nelle visite degli altri presidenti sembra incredibile. Tanto più che nell'incontro stampa abbiamo avuto anche delle notizie non da poco. Sentiamo. The United States is fully lifting the ban on the sale of military equipment to Vietnam that has been in place for some 50 years. Ecco, avete sentito l'annuncio più importante. Barack Obama che dice: gli Stati Uniti revocano completamente il divieto di vendita di armi al Vietnam, un divieto che è stato in vigore per più di 50 anni. Si tratta in realtà di armi letali, di armi piuttosto pesanti. Prima c'erano delle armi più leggere che potevano essere vendute, ma a parte questa eliminazione dell'embargo sono state anche annunciate vendite al Vietnam, vendite per 16 miliardi di dollari in aerei, materiali per l'aviazione, per esempio 100 aerei della Boeing, oppure 135 motori aerei della Pratt & Whitney, che andranno a una compagnia locale low cost che si chiama Vietjet. Insomma, il mondo cambia, il mondo si adegua, sono sviluppi questi importanti per i rapporti naturalmente fra Vietnam e Stati Uniti, ma anche per gli equilibri geopolitici nella regione, in particolare pensando all'invadenza della Cina nel Mar Cinese meridionale. Insomma, Barack Obama stesso lo ha detto, dice: queste armi serviranno al Vietnam per potersi difendere. Poi ha fatto un piccolo passi indietro in conferenza stampa, ha detto: no, ma qui la stampa elabora troppo dicendo che noi stiamo cercando di armare il Vietnam contro la Cina. Non è vero. Ecco, Credo che la verità stia nel mezzo. È ovvio che l'America non vuole che si scateni una guerra tra la Cina e il Vietnam, guerra impossibile, tra l'altro perché poi il Vietnam e la Cina sono vicini e il Vietnam dipende molto anche per le esportazioni dalla Cina. Però il Vietnam si deve difendere da questo espansionismo cinese. Ci sono state tensioni perché la Cina ha costruito pozzi di petrolio al largo delle isole Paracel, che sono di fatto territorio vietnamita. Ecco, Barack Obama ha voluto anche precisare che l'eliminazione dell'embargo non significa dare carta bianca e ignorare le violazioni, secondo gli americani, di diritti civili, delle libertà civili in Vietnam. Ma questo accordo è molto importante perché qual è l'altro sviluppo nuovo? Che forse il Vietnam potrebbe autorizzare gli Stati Uniti a tornare nel porto di Cam Ranh Bay, che è un porto con acque molto profonde che potrebbe ospitare addirittura portaerei americani, e dunque un altro appoggio nel Mar Cinese meridionale, oltre a quello nelle Filippine, per gli Stati Uniti. Un viaggio dunque a tutto tondo sul piano politico, su quello economico. Tra l'altro Barack Obama ha auspicato che si possa passare il TPP, dice: io ci credo ancora, so che si fa molto chiasso in congresso, che i candidati per la Casa Bianca sono contrari, eppure io spero che ci si riesca. Non credo in realtà, perché persino Hillary Clinton, che una volta era a favore di questo accordo, adesso è contraria. Infine, anche un importante accordo sul piano culturale. Sentiamo. We inserted by swift boat and small rubber raft and then went up the back side of... Ecco, la voce che avete ascoltato è quella dell'ex senatore del Nebraska, Bob Kerry, racconta, veterano del Vietnam, racconta di una sua esperienza di guerra. Dice: eravamo sulla collina, e ci siamo appostati, scendavamo. Ecco, che cosa è successo? Che una delle novità è che sarà creata una nuova università a Ho Chi Minh City, che sarà la Fulbright University, un'università americana senza controlli accademici di alcun genere da parte del governo vietnamita, e sarà guidata proprio da Bob Kerry, che oltre ad essere stato un veterano nel Vietnam, senatore a Washington, è stato anche presidente della New School a New York. Ecco, però Bob Kerry è un veterano particolare perché è stato anche al centro di uno scandalo per aver ucciso con il suo platone in una notte di 47 anni fa decine di civili, incluse donne, bambini. Kerry ha ammesso pubblicamente questo oscuro dramma che lo ha perseguitato, ha detto, per decenni, e ora, devo dire, con questa sua nomina si chiude definitivamente anche sul piano simbolico e morale quella che forse è stata la più tragica guerra nella seconda metà del secolo scorso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho aperto con Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, chiudo con Apocalypse Now, con la canzone più bella della colonna sonora, una canzone che è stato poi un successo globale, di The Doors. La canzone è The End, composta per il film. Sentite che tipo di mood, di umore, di malinconia c'è in questa canzone. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plan. Of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will so live at last and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Thank you.